Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Oggi ci immergiamo in alcune tesi piuttosto provocatorie, tratte da IA comunista di Marco Azzori. Salve. Sì, un testo che propone una lettura, diciamo, controintuitiva. Esatto, l'idea di fondo è forte. L'intelligenza artificiale, anche se nata nel capitalismo, avrebbe in sé qualcosa di quasi marxista nella sua struttura tecnica. Proprio così. Ma attenzione, l'autore non parla di determinismo tecnologico, è più un'analisi dialettica. Cioè l'IA come prodotto storico, non neutrale, che forse contiene i semi per un superamento del sistema attuale. Esattamente. Azzori la vede un po' come una potenza oggettivata della conoscenza, per usare un'espressione che richiama Marx, un accumulo di sapere collettivo. Interessante. E come si manifesterebbe questo lato collettivista nell'IA concretamente? Beh, prendiamo i Large Language Models, gli LLM. L'autore li interpreta come un'enorme cristallizzazione di conoscenza collettiva. Milioni di persone hanno contribuito, magari inconsapevolmente, con i loro testi, no? Ok, una specie di socializzazione del lavoro cognitivo? Sì, e anche il training, l'addestramento, distribuito su tante macchine, viene letto come un lavoro collettivo sincronizzato. Necessità tecniche che, secondo Azzori, hanno un'implicazione quasi politica. Addirittura? Si spinge a dire che la condivisione dei pesi, cioè i parametri interni che la rete impara, beh, è quasi una forma di proprietà comune dei mezzi di produzione cognitiva. Funziona meglio così, tecnicamente. Capisco. E da questa base tecnica, diciamo così, collettiva, lui ipotizza anche degli effetti sulle gerarchie. Eh sì, esplora come l'IA potrebbe potenzialmente scardinare un po' le gerarchie tradizionali. Beh, In che modo? pensa alla disintermediazione, accesso più diretto alla conoscenza, senza passare per forza da esperti o istituzioni, o alla democratizzazione vera e propria. Tipo tutor personalizzati, traduzioni istantanee. Esatto. E poi sul lavoro, automazione di compiti ripetitivi, magari un appiattimento delle decisioni, un aumento delle capacità dei singoli. Fino all'idea, molto marxiana, di ridurre il tempo di lavoro, liberare tempo. Messa così sembra quasi idilliaco, però immagino che l'analisi non si fermi qui. Come fai i conti con la realtà? Cioè, le big tech che dominano tutto. Infatti, il libro dedica moltissimo spazio alle contraddizioni. E la prima è proprio quella, l'oligopolio. Poche aziende controllano la potenza di calcolo, i dati, tutto. E qui entra in gioco lo sfruttamento, vero? Ne parlavi prima. Sì, ed è un punto chiave per Azzori. C'è uno sfruttamento, diciamo, a due livelli. Vediamo. Da un lato, l'estrazione di valore dai nostri dati. Tutto quello che facciamo online alimenta questi sistemi. È il lavoro non pagato, praticamente. Certo. Dall'altro, c'è il lavoro invisibile, quello fondamentale, ma nascosto, di chi etichetta i dati, li pulisce, li verifica, spesso sottopagato, spesso nel sud del mondo. Ah, ecco, il lavoro oscuro dietro la macchina intelligente. Esatto. Azzorilli la chiama una nuova accumulazione primitiva, un'espropriazione di conoscenza comune trasformata in capitale privato. Quindi un'architettura interna magari tendente al collettivo, ma un'applicazione nel mondo reale che è predatoria. E sui lavoratori che la usano, che impatto vede? Qui il concetto chiave è alienazione algoritmica. Cioè? Lavoratori guidati, controllati, valutati da algoritmi che non capiscono, non controllano. C'è una distanza crescente dal proprio lavoro, dal processo cognitivo. Una sorveglianza continua, quindi. Una sorveglianza pervasiva, sì, che porta a quello che Azzori chiama feticismo dell'IA. La tecnologia sembra magica, autonoma, e nasconde i rapporti sociali, lo sfruttamento che c'è dietro. E poi c'è la tensione tra la ricerca, che spesso è aperta, collaborativa. E la logica del profitto, della competizione, dell'appropriazione privata, dei risultati. Un classico, direi. Quindi l'IA non risolve le contraddizioni del capitalismo, anzi, secondo Azzori, le intensifica. Esatto. Le porta a un nuovo livello. E qui si apre lo scenario forse più speculativo, ma affascinante. Il potenziale rivoluzionario. Addirittura. Beh, l'automazione spinta potrebbe davvero mettere in crisi il lavoro salariato come lo conosciamo. Magari apre a scenari tipo reddito universale. Potrebbe anche creare nuove forme di solidarietà tra chi è soggetto a questi algoritmi. Azzori ipotizza una sorta di coscienza di classe algoritmica, sì, e pensa che la pianificazione algoritmica, oggi usata per ottimizzare i profitti, un domani potrebbe chissà, diventare uno strumento per una democrazia economica più reale. L'IA come campo di battaglia ideologico, insomma. Decisamente. È questa la sintesi. Una tecnologia ambivalente, potenzialmente collettivista nella sua essenza tecnica, ma sviluppata oggi in modo da rafforzare concentrazione, sfruttamento, anche quello nascosto, e controllo. Chiaro. E per sbloccare quel potenziale buono, diciamo? Servirebbero cambiamenti radicali, secondo Azzori. Proprietà sociale dei mezzi di produzione IA, governance democratica, distribuzione equa dei frutti, orientamento ai bisogni reali, non solo al profitto. Insomma, un'altra società. Un'impresa non da poco. Decisamente. Il messaggio finale, però, mi sembra potente. L'IA non è un destino ineluttabile, ma un terreno di scontro. La domanda chiave che pone il libro è: chi controlla i mezzi di produzione dell'intelligenza? Esatto. È un invito a non essere spettatori passivi, ma entrare in gioco per decidere quale futuro vogliamo dare a questa tecnologia. Una questione politica, prima che tecnica. Grazie mille per questa analisi così ricca. Grazie a te.